di nuovo in diretta, puntuali 7:47 minuti di questa vigilia di weekend, venerdì 6 settembre. Scusate, mi ricollego alle notizie in quanto è arrivato un messaggio di Matteo. Perdonami Matteo, ma mi è sfuggito. Ero al lavoro in un altro studio, lavoro di redazione, e quindi non ho ascoltato il GR di Radio Popolare. Scrive Matteo: ma Putin che appoggia pubblicamente la Harris, dove lo mettiamo? Beh, io direi che dopo tutte le dichiarazioni per manipolare le elezioni ovunque negli Stati Uniti d'America e ovunque e comunque, direi che Putin anche con questa affermazione ha fatto capire tanto, ha fatto veramente capire tanto. Non ho sentito se la notizia è stata riportata dal GR di Radio Popolare, intanto grazie Matteo, non c'era sulle prime pagine, come ben sapete evito accuratamente la rete, però intanto grazie per la collaborazione, ti auguro una buonissima giornata, avremo modo di parlarne. Intanto do il buongiorno al mio fratellone Sergio Fanti, buongiorno Sergio. Buongiorno a te, buongiorno a tutti. Iniziamo in scena assieme ed è una cosa molto bella, anche perché i contenuti sono tanti, quindi uniamo le nostre forze in diverse sedi, diversi palcoscenici, alcuni sono già stati presentati, secondo me verranno ripresentati in corso di autunno per la stagione 2024-2025. Ecco, al Deon mi pare che nel corso della stagione al termine precedente non ci sia stata alcuna anticipazione. No. Ecco, quindi è stata l'unica conferenza quella di siamo ieri. Sul pezzo, sì. Esattamente, tu hai presenziato a questa conferenza di una sede storica per Bologna, no? Il Teatro Odeon, pronti a una relazione aperta, già il titolo mi sembra molto particolare. Ma infatti non è mancato qualche accenno ironico, perché conoscendoti immagino. No, ma non conoscendo me, conoscendo la situazione del Ministro della Cultura, hanno detto che praticamente hanno sostenuto che quando hanno pensato al titolo erano già avanti sugli eventi. Sapevano già, esatto, quello che sarebbe capitato, un po' come l'onorevole con l'amante sotto il letto nel 1981 con Lino Banfi e Alvaro Vitali, che sono diventati addirittura premonitori per i contenuti odierni. Peccato che sia politica italiana. Comunque, detto questo, la stagione del Teatro Odeon con questo titolo, che ovviamente, a bando alle ironie, avrà anche delle motivazioni ben specifiche molto più attinenti al palcoscenico, io immagino che sia una relazione con il pubblico, una relazione attore, spettacolo, pubblico stesso, insomma con Ferrarini, che ha delle caratteristiche anche lui molto particolari. Sì. Questo, che salutiamo e ringraziamo. Assolutamente, è stato molto collaborativo, e poi ti dirò che lui fa sempre delle conferenze stampa in cui dice il suo pensiero sulla situazione del, sì, teatro, sui criteri che ispirano la programmazione del suo teatro, del Deon, e quindi non mancano parecchi rimandi alle cose che ha studiato, alle cose che sta pensando, quindi da questo punto di vista sono presentazioni universitarie, per così dire, a volte. Dell'Electio Magistralis. Esatto, comunque la relazione aperta è nel concreto, al di là di tutto quello che si può immaginare e dire a livello di retorica sulla relazione aperta tra spettatori e artista, si tratta di un abbonamento flessibile. Ah. Praticamente lo spettatore può scegliere il suo abbonamento a seconda proprio degli spettacoli singoli che gli interessano, e questo in effetti è una cosa interessante. Perché non... per tutti i gusti, insomma, e uno sceglie. Sì, magari mi piace quel prosatore, quel comico, quel cantante, e io mi compongo autonomamente un abbonamento. Beh, questa è una cosa molto bella che arriva da parte del Teatro Deon, è stata, sì, una bella idea. Sì, molto. E quindi a me piace. Anche a me. Iniziamo allora la conversazione con Piero Ferrarini, che è stato intervistato da Sergio, anche se Piero ha una modalità molto particolare durante le interviste. Quindi ascoltiamo insieme questa prima parte, questo primo segmento. Teatro Deon, stagione 2024-2025, pronti a una relazione aperta. Sono con Piero Ferrarini, direttore artistico del Teatro Deon, e parliamo di quella che sarà la stagione 2024-2025 del Teatro Deon, cioè soprattutto che tipo di stagione sarà. Questo è già indicato da quello che è il claim della stagione, pronti ad una relazione aperta. È una frase ironica che abbiamo scelto, ironica solo un po' ironica, diciamo così, che tratteggia bene quelle che sono le caratteristiche non solo di questa stagione, ma diciamo dell'intera attività del teatro, quantomeno negli ultimi anni. Perché è una relazione aperta. Cosa significa una relazione aperta? In una relazione aperta noi riteniamo che al centro dell'attività dell'impresa culturale, perché oggi si parla di imprese culturali, debba essere lo spettatore, debba essere la persona, quindi è aperta alla persona, alle sollecitazioni dello spettatore, del pubblico, che è parte di un percorso collettivo di crescita, che lo investe direttamente e che investe naturalmente anche gli organizzatori, gli attori, le istituzioni e chiunque ruoti attorno al teatro. Premettiamolo, questo è non il Teatro Odeon, ma il teatro in generale in Italia è in forte ripresa. Siamo in un momento dopo l'epidemia, quando tutti pensavano ormai che i giochi fossero fatti, invece il destino rilancia i dadi e il pubblico torna a teatro. Credo che in questo momento sia importante, diciamo, tracciare delle coordinate precise. Sarebbe un grave danno oggi se il teatro vivesse una deriva aziendalistica eccessiva e si volesse tipizzare lo spettatore. Spesso sento parlare di targeting, no, questo non c'entra. Deve ritrovare, credo, il teatro, tutto il teatro italiano, e noi nel nostro piccolo contribuiremo con quello che è l'attività del Teatro Odeon, a centralizzare invece l'aspetto umanistico del teatro, l'aspetto umanistico e anche l'aspetto umano, perché non dimentichiamo che andare a teatro è anche un'attività sociale. Attenzione, non social, sociale. I social sono un elemento importantissimo di promozione oggi, contribuiscono all'emersione di talenti nuovi, sono assolutamente indispensabili. Dico, non possiamo demandare la formazione culturale degli individui, degli italiani, delle persone, degli uomini e delle donne, dei ragazzi soprattutto, a internet, ed è per questo che il teatro sempre più deve cercare di conquistare, o meglio di riconquistare, quelli che sono i suoi spazi, quindi uno spazio culturale, uno spazio naturalmente istituzionale, uno spazio dialogico e quindi di interrelazione, di relazione con lo spettatore, una relazione che sia ovviamente a due direzioni, che sia bionivoca, e anche con quelle che sono le maestranze del teatro. finale Living for the City di Stevie Wonder. Beh, del resto il Teatro Odeon è un fondamentale tra i palcoscenici. Quanto teatro a Bologna e viva il teatro sempre e comunque, ne siamo molto contenti, e che possano sbocciare una gemmatura di mille fiori all'interno del contenitore in scena che porta informazione su tutti i teatri, diciamo, che cerchiamo di coprire il più possibile. Allora, Teatro Odeon pronti a una relazione aperta, stagione 2024-2025, appoggio totalmente Ferrarini, direttore artistico, quando in conversazione con Sergio Fanti dice: non lasciamo la formazione culturale, soprattutto ai giovani, a Inter. Ecco, questo lo voglio sottolineare, quindi direi che in questo siamo assolutamente alleati, ed è un contenuto che vede anche una proiezione futura per quanto riguarda i contenuti a teatro. E guardiamo alcuni spettacoli, Sergio, abbiamo il programma, fra l'altro, ecco, abbiamo anche importanti presenze, un musical e una interpretazione di Frankenstein Junior, ripreso sì. Qua per quanto riguarda l'intrattenimento, e poi tanta musica, quella volta in cui Ennio mi raccontò, un omaggio al grande Ennio Morricone, venerdì 17 gennaio. Certo, vi daremo poi informazione sugli spettacoli man mano che vi è l'avvicinarsi della presentazione. L'arte, Vincent van Gogh, Lettere a Theo, questa è più vicina, mercoledì 30 ottobre, il fratello Theo van Gogh. E quindi sì, certo, sì, un teatro che copre in maniera tentacolare diversi aspetti. Gli spettacoli sono veramente tantissimi, al punto da essere inelencabili. Ci sono chiaramente le varie competenze, la comicità, la prosa, la musica. Sulla musica, sai, c'è il nostro comune amico Franz Campi, che fa uno spettacolo su Rabagliati. Oh, grazie. Oh, cioè, qui si va proprio a scoprire da dove veniamo, cioè sì, diamo risposta a quesiti filosofici proprio. Sì, sì, sì. Poi volevo dire una cosa interessante del Teatro Odeon, è che in questa trasversalità, infatti dopo c'è anche la seconda parte, no, della conversazione con Ferrarini, lui è stato molto attento a tutto ciò che viene dalla rete, cioè ai fenomeni che, come i Pantellas, come Casa Abis, come altri, che hanno avuto un grosso successo sui social, talmente coinvolgente da costituire un seguito importante e quindi da avere senso portarli a teatro. Quindi è un teatro, il Deon, che per quanto sia tradizionale, un teatro che spesso sembra fermo, in realtà è un teatro molto attento anche a quello che sta succedendo al mondo. Direi addirittura, se posso dire, insomma, che la prosa che tradizionalmente ha trovato casa al Deon è un pochino numericamente sotto a tante nuove tendenze che stanno prendendo piede. Tante nuove proposte. Mi collego, a proposito del fenomeno social, di come giustamente il direttore artistico abbia poi deciso di dare concretezza a tutto ciò con un progetto a teatro. Quindi di non lasciare unicamente una piattaforma, ma trasformare tutto ciò in palcoscenico. Bravo! Quindi abbiamo anche parlato, oltre che di qualche spettacolo, nella seconda parte di conversazione, una visione anche di quello che potrebbe essere uno sguardo futuro. Come vedo l'avvenire del teatro italiano? Ma io non sono tendenzialmente una persona di quelle proprio ottimiste a prescindere, ma devo dire che mi sembra davvero invece che in questo momento stiano emergendo delle correnti interessanti nel teatro italiano, no, ma non solo italiano, però l'Italia forse da questo punto di vista è un po' più avanti. Qua troveremo nel cartellone, solo così per sommi capi, rappresentate le nuove tendenze, soprattutto la stand-up comedy, i content creator, che oggi sono un elemento importantissimo nella programmazione teatrale. ovviamente anche una parte riservata alla prosa classica per il pubblico, diciamo così, un po' più tradizionalista, e si è detto questo senza nessuna sfumatura di merito, e anche una parte musicale che è, diciamo, quella che si è aggiunta più recentemente all'attività del Teatro Deo. Io credo che i motivi per andare al teatro non manchino mai. I motivi per venire al Teatro Deo sono forse ancora di più, considerato che noi abbiamo attività praticamente quasi tutte le sere per quasi tutta la stagione, per un numero di titoli che io non li ho contati, non so quanti siano, per cui... Sono comunque tanti e la programmazione è davvero trasversale. Sì, trasversale, pluridisciplinare, multidisciplinare, c'è una differenza tra le due cose, e comunque in ogni caso in grado, credo, di soddisfare la domanda di cultura, la domanda di spettacolo, che è una città come Bologna, quindi un'economia di settore molto molto ricca, può intercettare questo sicuramente. Insomma, quindi buon teatro a tutti, come dico io, vi aspetto il tema. Grazie. Prima presentazione di cartellone di stagione è stata effettuata, 2024-2025, in scena apre con Teatro Deon. Ovviamente abbiamo appena iniziato, rientriamo tra pochissimo dopo la pubblicità con Sergio Fanti, che già ha curato tra l'altro questi spettacoli di cui parleremo tra poco, immediatamente dopo la pubblicità. Possiamo anticipare che siamo a Castelmaggiore, Villa Salina, correggimi se mi sbaglio, Sergio. Giusto. Ho detto bene, meno male. Perfetto. A tra poco. Hey,